Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Capisco che i tempi cambino, che sia sacrosanto essere costruttore di ponti piuttosto che custodi di fuochi eterni, e che pecunia non olet, dove pecunia va tradotto con economia o interessi. Ma Gheddafi al Senato mi lascia un po' perplesso. E mi chiedo, se il Parlamento si apre a Gheddafi, ma rimane chiuso al Dalai Lama, ancora una volta pecunia, questa volta cinese non olet, perché non invitare anche Chavez, Fidel o Kim Jong-il al nostro Parlamento a spiegarci il loro verbo? Gianni. Trovo sia stato molto sbagliato aver impedito a Gheddafi di parlare in Senato. Personalmente non condivido, ovviamente, la linea di Gheddafi, ma penso che comunque sia un leader di un paese estero e, se non sbaglio, sta venendo come presidente di turno dell'Unione Africana, quindi una carica molto istituzionale. Farlo parlare in Senato non significa condividere il suo operato. Per di più, mi sembra molto ipocrita, visti i continui rapporti che noi abbiamo con la Libia. Inoltre, in questo modo si viene a creare un precedente. Ora, ogni volta che qualcuno sarà invitato a parlare, il Senato dovrà mettersi nella posizione di giudice e rischiare di prendere delle cantonate pazzesche. Non si parla in Senato se si è bravi uomini o meno, e Gheddafi probabilmente non lo è, ma se si è un capo di Stato o no. E infatti il Dalai Lama non ha parlato non perché non sia un bravo uomo, ma perché non era un capo di Stato. Allora mi aspetto che nemmeno i leader cinesi possano essere accolti, o i turchi, eccetera, e ogni volta dovremo decidere chi è meritevole o meno. È una posizione da giudici che non compete al Senato. Marcello. Vi scrivo perché non riesco a sostenere con lo stomaco l'immagine di Gheddafi che si presenta in territorio italiano quale presidente dell'Unione Africana, 50 anni dopo una terribile guerra che ha coinvolto il mondo, con al petto una fotografia che ha immortalato un evento accaduto in un contesto storico che non ha nulla a che vedere con quello attuale, all'unico scopo di mettere in imbarazzo il nostro paese. Napolitano, Berlusconi, Maroni, con grandi sorrisi, hanno accolto il terrorista beduino scampato ad attentati e non credo per volere di Allah, facendo finta di nulla. Come si fa quando il bambino idiota fa chiasso per farsi notare, nonostante quel bambino idiota abbia ricattato e ricatti tuttora il nostro paese, dopo avergli sottratto le proprietà all'epoca del colpo di Stato, spillato qualche miliardo di euro per costruire una strada in terra di Libia a titolo di risarcimento per i danni di guerra, dopo essersi impegnato, come può impegnarsi un dittatore bugiardo ed assassino, a non far più partire barconi carichi di disperati dalle spiagge libiche, e dopo essersi assicurato di fornire all'Italia la propria produzione di gas per i prossimi anni. Non si può dire che Gheddafi non abbia fatto l'interesse del proprio paese, ma vorrei sapere se fa anche l'interesse dei propri cittadini. Il nostro paese può, in cambio di una fornitura di gas, sottostare a tali continue umiliazioni, accettando promesse che non si potrà mai sapere se saranno mantenuti, dati i trascorsi, magari per un capriccio, ad esempio una disputa di pesca ai limiti delle acque territoriali. Forse mi sbaglio. Ma per quale motivo, oltre al gas, dobbiamo sentirci dare dei fascisti colonialisti, ora che i tempi sono cambiati, da un dittatore che non ha alcuna intenzione di far crescere il suo paese, traghettandolo verso la democrazia? Ne vale veramente la pena? Io il gas l'avrei comprato altrove. I 5 miliardi di euro li avrei investiti in energie alternative e in risorse per contrastare l'immigrazione clandestina. E se Gheddafi ci avesse invitato a casa sua per concludere un accordo per costruire una strada con fondi italiani, sarei andato con un bel sorriso con la fotografia di Lockerbie sul petto e l'assegno di 2,7 miliardi di dollari pagati da parte di Gheddafi, mandante riconosciuto dell'attentato, alle vittime dell'attentato, nonché con un atto di citazione per ottenere la restituzione di tutti i beni confiscati agli italiani prima di essere cacciati dal territorio libico. E durante il primo discorso avrei sostenuto che la democrazia e la volontà popolare sono l'unico mezzo che una società ha per crescere. Pensate che il mio aereo avrebbe avuto un incidente al ritorno? Stefano. Che Gheddafi non sia un gran soggetto mi sembra chiaro, ma è il leader di una nazione nostra amica, che abbiamo tutto l'interesse a trattare bene, con la quale commerciamo, trattiamo, collaboriamo per il controllo delle frontiere dell'immigrazione clandestina. Se la sinistra non è d'accordo, che propone? Un'invasione stile Iraq? Non sarebbe male. Io ero d'accordo con Bush allora, e credo che la democrazia si possa esportare, ma sono loro poi che non devono lamentarsi. Seconda cosa. La Libia ha ottenuto nei mesi scorsi la presidenza della Commissione diritti umani dell'ONU e ci siede assieme a Sudan, a Cuba, eccetera. Sembra una bufala, ma è vero. E ha ottenuto tutto questo assieme all'esclusione da parte della Commissione suddetta degli Stati Uniti. Questo per dire in che mani siamo all'ONU. Ma la sinistra saprà parlare male del totem ONU. Fabio. Con sgomento ho visto le prime immagini del colonnello Gheddafi, bardato a festa come un nostro carretto siciliano nella sua alta uniforme e artisticamente spettinato come un nostro diciottenne all'ingresso della discoteca, corredato inoltre della foto di Omar al-Mukhtar, appuntata fieramente sul petto e indossata anche nell'incontro con il nostro presidente della Repubblica Napolitano. Io, come suppongo migliaia di italiani, sino a giovedì mattina non sapevo nulla di Omar al-Mukhtar, ucciso dagli italiani durante il colonialismo e, sebbene dispiaciuto per la fine di questo poveretto, credo che il gesto di Gheddafi sia un ulteriore segno di disprezzo o, se non altro, di bassa considerazione verso il paese che lo ospita in quel momento, palesato da un personaggio che è il capo di un paese che è il principale esportatore di clandestini verso l'Italia, che ha lanciato un paio di missili verso la Sicilia senza subire conseguenze, che è sospettato di ospitare terroristi e campi di addestramento per terroristi. Pertanto, non lo definirei esattamente un modello di comportamento. Inoltre, il suo paese ha ricevuto 5 milioni di euro di danni per il colonialismo italiano. Io ci sono stato in Libia e i danni se li sono fatti i libici dal 1945 in poi. Prima coltivavano il grano nel deserto. Ora andate a vedere Bengasi. Se quest'uomo rappresenta in maniera sostanziale la mentalità araba, è evidente, purtroppo, che la convivenza con popoli che non hanno una minima dose di obiettività rispetto delle regole di convivenza e tolleranza non sarà mai possibile. Mi sarebbe piaciuto che il nostro Presidente del Consiglio o il Ministro degli Interni o il Presidente della Repubblica avessero dimostrato di possedere un po' di attributi, reagendo in maniera opportuna. Forse sarebbe meglio avere come Presidente del Consiglio un uomo come Marchionne, che ha detto agli americani «L'accordo è stato fatto». O mantenete le condizioni, oppure vi tenete la Chrysler. Roberto, Genova. Per i radicali, Gheddafi non può parlare al Senato. L'ex terrorista Sergio D'Elia invece sì. Bizzarro. Il guaio del PD è che la sua base, vedi la Serracchiani, sembra più vecchia della sua classe dirigente. Nel senso che è vecchia dentro. Alessio. Se Obama apre al mondo arabo-islamico, con cui c'è reciproca diffidenza e i rapporti sono pesantemente compromessi da tempo, se Obama fa questo dicendo che bisogna arrivare ad una svolta per superare le barriere e modificare i rapporti, allora è un genio. È il nuovo. È il nuovo messia. Cioè la speranza planetaria fatta persona. E pazienza se magari si rivolge a chi fa del terrorismo o della guerra o dell'odio sistematico un motivo di reclutamento costante. Pazienza anche per i cosiddetti diritti umani. Poi c'è Berlusconi, che sta cercando di dare una svolta ai rapporti Italia-Libia. Insomma, anche lui nel suo piccolo apre, come il messia sopracitato, per superare steccati. E però le reazioni sono un tantino diverse. Vergogna per l'invito, vergogna per l'abbraccio, vergogna per l'apertura verso chi non rispetta i diritti umani. Siamo ridicoli. Siamo la vergogna del mondo. Aiutatemi a capire la coerenza logica per cui nel principio così simile al comportamento uno è il Messia, l'altro l'Anticristo. E ho idea che tale approccio non sia esclusiva italiana. Anzi, Andrea. Egregio direttore, qualche giorno fa ho ascoltato una lettera da voi selezionata dove l'ascoltatore si preoccupava dell'inarrestabile ed incontrollata crescita demografica dei paesi poveri, mentre lei ricordava al contrario la tendenza negativa delle nascite nel nostro paese in parte compensata dagli immigrati. Ebbene, io rappresento un'eccezione. Sono italiana doc, madre di 4 figli, la prima di 8 anni e l'ultima di 8 mesi. E fra circa un mese dovrò riprendere il lavoro, in quanto con il solo stipendio di mio marito, un semplice caporeparto, in 6 non è sempre facile arrivare alla fine del mese. Ora arrivo al dunque. Secondo lei, può una madre con 4 figli, tutti piccoli, rientrare al lavoro a tempo pieno come infermiera professionale sui turni in un reparto sicuramente non agevolato, cosa riservata al personale con più anzianità di servizio? Da diversi anni non viene più concesso un part-time perché la percentuale da contratto è stata raggiunta e i diritti acquisiti, come dicono i sindacati, non si toccano. Tutti sanno che sono stati assegnati tempi parziali indeterminati senza criterio anche a chi non ne aveva alcun bisogno o a chi voleva solo lavorare meno o farsi un'altra attività. Purtroppo sono entrata nel 2005, quando avevo già 3 figli e quando il treno ormai era perso per sempre, nonostante io di questo part-time ne abbia veramente bisogno. Illustrissimi governanti e caro Santo Padre, dove sono finite le politiche a sostegno delle famiglie, specialmente quelle numerose, e ancor più, dove sono finiti i diritti per le donne lavoratrici con più figli? Ho visto molte colleghe madri costrette a licenziarsi perché non è stato concesso loro il part-time e mi auguro di non trovarmi costretta a prendere la stessa tragica decisione solo per aver scelto di avere più figli e di svolgere un lavoro dedicato alla cura e alla salute del prossimo. Forse ha ragione lei, caro direttore. Emigriamo in Francia. Cordialmente, Simona. Cara Simona, sì, lei è sicuramente un'eccezione, una lodevole eccezione. In questa Italia che non solo ha il tasso di crescita demografico naturale più basso del mondo, ma è anche il paese con il rapporto più alto tra vecchi e giovani. E questo certo perché è cambiata la società, ma anche perché quelli che lei chiama gli illustrissimi governi hanno fatto e fanno poco o nulla per attuare delle vere politiche per la famiglia. Le agevolazioni fiscali sono poco più che simboliche, così come i sostegni al reddito delle famiglie numerose. Eppure non sarebbe difficile e nemmeno eccessivamente costoso, come dimostra l'esperienza francese. Aiutare, anzi incentivare, le famiglie numerose sarebbe un investimento sul futuro della nostra società. Sarebbe il modo più costruttivo per evitare il declino. Volevo dire 2 parole sulla Ferrari. Posto il fatto che costruire una nuova macchina, magari veloce, non è mai cosa semplice, resta l'amarezza nel vedere la Ferrari battersi per un 6° posto. Già vista, d'accordo, ma il cuore del tifoso la vorrebbe sempre in pole e al 1° posto. Mi viene in mente l'anno in cui si è presentata con l'alettone anteriore a cassetto di comodino, che è partito male e finito peggio. Dobbiamo quindi metterci il cuore in pace e aspettare il prossimo campionato? Certo! Se non ci fossero in mezzo tutte le baruffe con la FIA. Peccato, una bella occasione persa. Mi ricorda tanto il povero Regazzoni che sfiorò il Mondiale nel 74 e a chi gli diceva «Dai, ti rifarai il prossimo anno» rispose «No, il Mondiale io non lo vinco più». Profeta di se stesso, un grande. Ecco, semplicemente questa è la mia considerazione, scremata dalla retorica altalenante del tifoso. Antonio da Treviso. Esistono 2 differenze fondamentali fra la Lega Nord e il British National Party britannico, molto più profonde di ogni strategia politica. Per andare al sodo, se sei nero musulmano, puoi essere leghista se lo vuoi. Il BNP, invece, proprio non accetta al suo interno altri che bianchi e cristiani. Il razzismo non è solo dichiarato, ma fa parte dell'identità del partito. Ricordiamoci che finanche il Front National di Le Pen accetta benissimo francesi non bianchi o non cristiani. Griffin è ben peggio di Le Pen, altro che bossi. L'atteggiamento del BNP nei confronti degli immigrati e in generale dei non bianchi e non cristiani è di aperta ostilità, con il desiderio palese di mandarli tutti via. La Lega invece si presenta come un difensore dei milanesi rimasti, quasi fossero amerindi a rischio di riserva. Bossi e soci, cioè, vogliono proteggere gli indigeni e magari diminuire il numero degli immigrati irregolari in arrivo, mentre Griffin e Sodali, se potessero, passerebbero il loro tempo ad allontanare fisicamente gli immigrati anche regolari. Io stesso, che cambio colore con la bella stagione diventando nero marroncino e parlo con un accento non proprio britannico, sarei probabilmente guardato male, se non oggetto di aggressioni più o meno velate, se mi presentassi a una riunione del BNP. Maurizio, Londra. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.